Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Ascoltiamo la lettura di alcuni passaggi dalla rubrica di Serena Vitale Table Talk, dall'inserto domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Telegiornale. Bambini di 5 o 6 anni cantano, sotto gli occhi compiaciuti di mamme e maestre, Osteria dell'Uomo Nero, occupiamo il ministero, con relativo Paraponzi Ponzi Po. Mi è mancato il respiro. Ho la disgrazia linguistica di avere un marito cieco, senza la I, per evitare la scontata reazione «Oh, poveretto!» negli ultimi anni sostituita da «Almeno lei potrebbe chiamarlo non vedente!» Adesso dico in parte mentendo «praghese!» E non mi passa neanche per la testa di dichiarare guerra alle perifrasi eufemistiche del «politically correct!» C'è già chi se ne occupa, sono allergica al conformismo anticonformista. Ma mi riservo il diritto di infuriarmi se una trasmissione televisiva del sabato sera ha presentato per questa stagione, grazie a Dio è finita, ragazzi affetti da sindrome di Down che in cambio di abbracci e doni dal proprio idolo, calciatore, attore, cantante, sbucato fuori all'improvviso da dietro una grande busta di legno, cedono oggettini cari cui poco prima non volevano rinunciare per nulla al mondo. Sottinteso, sono così dolci e uguali a noi, ma anche... e tutti un po' spilorcetti. Un gruppo, una specie, orrore. Che gli esseri umani con cui la natura non è stata generosa fino in fondo possiedano una straordinaria intelligenza primaria, lo sa qualsiasi normo pensante. E chi ha letto Nati due volte di Giuseppe Pontigia sa anche che non hanno alcun bisogno di untuoso ipocrita tenerezza. La loro seconda e preziosa vita è affidata unicamente all'amore, all'intelligenza degli altri. Quando vengono a consegnarvi la lettera d'invito, ragazzi, fate rispondere: non c'è trippa per gatti, né per volpi televisive. Ho ceduto nuovamente al mio vizio notturno, Marzullo. Questa volta parlava di teatro e poneva una delle sue brodose domande a Franca Valeri. L'attore recita un'illusione o una realtà, un sogno o un desiderio, il personaggio o una proiezione di sé? Con un fulmineo sorriso anche negli occhi, Franca Valeri risponde: recito quello che è scritto nel copione. La adoro, signora Valeri. Supermercato, reparto pesce. Davanti a me un uomo poco oltre i 30 anni, giacca e cravatta, trench scuro, parla all'invisibile microfono di un cellulare e contemporaneamente col commesso. Un branzino non di allevamento, un sacchetto di vongole. Tu, con te, era il mio progetto di vita. Quante pause di riflessione vuoi ancora? Devi chiarirti una cosa sola. Mi ami? Sono veraci? Lo incontro di nuovo davanti al banco del salumiere. Duetti di crudo all'osso. Dolce. No, non parlavo con te. Ho mai detto niente io quando ti giravi dall'altra parte con la scusa del mal di testa? E ora mi vuoi lasciare per una, dico un'unica volta... Anche gli altri clienti in attesa, non potendo fare a meno di sentire, si appassionano alla tormentata storia d'amore. Una signora confida alla vicina di fila. Ci vuole pazienza. Io ho sempre chiuso un occhio sulle scappatelle di mio marito. Oggigiorno sono le donne che si gettano addosso ai maschi. E un etto di mortadella col pistacchio. Ero stressato, lo sai, dopo 10 ore di... Non voglio dire che tu non lavori, il bambino, certo, ma io... Lasciami parlare! Una vaschetta di squacquerone. Basta così. Non dicevo a te. Se hai deciso di mandare all'aria il nostro matrimonio per l'unica volta che ho fatto cilecca... No, le pillole non le prendo e non mi faccio visitare dal tuo cavolo di sessuologo. Vacci tu, ninfomane! Strappa via gli auricolari, prende i pacchetti, si dirige verso la cassa. Un giorno, il negretto che accompagnava Pietro I durante una passeggiata dovette fermarsi per un bisogno e all'improvviso si mise a urlare terrorizzato. «Maestà, maestà, mi esce lo stomaco!» Pietro gli si avvicinò, e vedendo di cosa si trattava gli disse: «Sciocchezze, non è lo stomaco, è un verme solitario». Dopodiché estrasse la tenia con le proprie dita. Quel negretto sarebbe diventato Ibrahim Petrovich Hannibal, kammerdiener e segretario dello zar, poi illustre ingegnere militare. Da una sua nipote nacque Alexander Pushkin. Il nonno di mia madre era un negro, figlio di un influente principe. L'ambasciatore russo a Costantinopoli lo riscattò dal serraglio in cui veniva tenuto come ostaggio e lo mandò a Pietro I insieme con altri piccoli negretti. I compagni del liceo ricordavano la sfrenata passionalità africana, l'ardore del sangue africano di Pushkin. Egli stesso, poi, si autostilizzò in deforme progenie di negri, cantò il cielo della sua Africa, sempre portando orgogliosamente la negritudine come uno tra i segni della propria alterità. Nel 1912 lo psichiatra Ivan Sikorsky scrisse dell'avida sensualità e audacia erotica dei negri, pericolose per la donna bianca. Nell'anima idealista del sommo poeta, in forme molto attenuate, viveva come un parassito l'istinto negroide. Chissà se da questo Sikorsky ucraino non discenda il ministro degli esteri polacchi Radoslav Sikorsky, quello secondo cui Barack Obama avrebbe origini polacche perché un suo avo mangiò un missionario arrivato dalla Polonia. Per un secolo e mezzo il bisnonno di Pushkin fu ritenuto originario dell'Etiopia. I Mori, che dal 700 servirono alla corte degli zar, con una paga invidiabile, sembra che alcuni russi dalla pelle nivea si colorassero col nero fumo per essere ingaggiati, erano chiamati anche etiopi, termine che un tempo designava genericamente i neri di origini africane. Alla fine del XX secolo, uno studioso del Benin, Diodonè Nyamankou, ha creduto di identificare il vero luogo di nascita di Hannibal, già molto tempo prima in verità lo aveva ipotizzato Vladimir Nabokov, nel principato, dal 1790 sultanato, di Lagon o Logon, al confine tra Camerun e Chad. Lo confermerebbe il toponimo Logon, menzionato dallo stesso Hannibal. Era dunque un kotoko? Perché non un masai o un nomade fulano? Hanno congetturato altri. Ma i 15 tomi di Una storia degli ebrei nella sua biblioteca, il nome Ibrahim e quello dei suoi figli, Isaac, Jacob e Yosef, un caraita della comunità stabilitasi in Crimea? Benché l'oziosa questio, la razza di Pushkin era quella ormai in via di definitiva estinzione dei geni, faccia ancora discutere, nel 2002 in una piazza di Addis Abeba è stato eretto un monumento al padre della letteratura russa, pronipote di un etiope. Indispettiti, gli eritrei non hanno voluto essere da meno. Per il nuovo monumento si è subito offerto Zurab Tsereteli, lo scultore che ha deturpato anche lo skyline di Mosca, con il Pietro il Grande, il mastodonte 94 metri, che si leva dalle acque della Moscova. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dalla rubrica di Serena Vitale Table Talk, dall'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola Oggi.